l'estate è cominciata, ieri son partita e la vivo senza te. Ho preso due valigie e ti ho lasciato le fatiche e non torno più da te. Ora avrei bisogno di qualcosa, almeno di una rosa per stare un po' bene. Vivo un'estate al mare, un'estate che meglio un giorno sola che tre passati con te. Il rumore dell'estate, di giochi e di risate arriva fino a qui. Nessuno sa di te. Poi mi fermo e guardo il mare, c'è un ricordo che fa male, ma lo scaccio via. Vivo un'estate al mare, un'estate che meglio un giorno sola che tre passati con. L'estate è già finita, ieri son partita e non corro più da te. Mi guardo un po' intorno, cerco il nuovo mondo e se lo scopro sai che c'è.